Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Eccoci qua ancora con i Padri Eterni su Radio 24, un'ora intera per parlare di padri, per parlare ai padri. Anche oggi una puntata registrata, anche oggi una puntata con le nostre postazioni in remoto. Io sono a Bologna, Matteo Bussola invece è in collegamento da Verona. Ciao Matteo, buona domenica. Ciao Fede, buona domenica a voi. Ma anche oggi ci siamo, perché insomma crediamo che sia giusto, che sia bello, che sia doveroso, no? Continuare a fare questo racconto anche dal punto di vista di noi padri. Una settimana dove c'è stata la festa del papà, tantissimi post per questa festa del papà diversa, strana, no? Perché tanti anche l'hanno rivissuta dopo anni che non la vivevano, perché spesso è un giorno lavorativo, spesso non ci si ricorda. Invece quest'anno paradossalmente è stata amplificata come giornata, no Matteo? Ma guarda, credo che mai i papà non abbiano mai ricevuto così tanti consensi, così tanti regali come quest'anno, perché credo che sia una delle poche occasioni in cui la festa del papà è stata vissuta davvero con i papà lì o con i papà in casa, quantomeno per la maggior parte, insomma. Giornate anche difficili, giornate, insomma, abbiamo avuto notizie, la scuola che appunto non riaprirà, tanti morti, tanta sofferenza, tanta paura, anche tante cose da dover raccontare, spiegare ai nostri cuccioli. Quindi insomma giorni non facili, dove insomma si cerca anche di portare un po' di serenità. Tenteremo di farlo anche in questa puntata, dando anche tante dritte su cosa poter fare ancora con le nostre figlie, con i nostri figli a casa. Tu, Matteo, hai preparato un po' dei tuoi consigli anche oggi, vero? Sì, sì, okay, mi ritengo per la parte finale della puntata. Perfetto, però volevamo iniziare con un omaggio, un omaggio profondo fatto da un amico che ha pubblicato questo post su Facebook un paio di giorni fa. Dice: era mio padre, quello della foto un po' sfocata, necrologi di ieri, era mio padre, lo ricordo con una barba nera che mi insegnava a dare calcio a un pallone nel parco sotto casa. Era mia madre, quella signora elegante, morta da sola in ospedale perché non si poteva entrare, il dolore più grande, lei da sola. Era mia madre che mi faceva posto nel letto grande quando avevo la febbre, mi sembrava sempre l'unica cura possibile. E continua questo racconto, che un racconto che forse tanti nella nostra mente abbiamo fatto ascoltando le storie di uomini e di donne che in questi giorni stanno morendo. E questo post è stato scritto da Gabriele Corsi, a cui diamo il benvenuto. Ciao Gabriele, buona domenica. Ciao Federico, ciao Matteo, buona domenica a tutti, buongiorno. Intanto grazie, perché sei riuscito a riassumere, credo, parole di tanti, no? con queste frasi, forse scritte di getto probabilmente. Sì, tu mi conosci bene Federico, quindi sai benissimo, come dire, che non sono uno che sta lì a calcolare, e né mi aspettavo sinceramente così tanta condivisione e così tanta commozione. L'ho fatto perché era un urlo che sentivo dentro, soprattutto era un urlo nei confronti di chi dice semplicemente sono morti solamente tot persone, no? Derubricando il tutto a un numero, oppure ancora peggio, ma muoiono solo i vecchi, ma muoiono perché avevano altre patologie, vabbè, ma di qua di là. In questo momento credo che non ci sia una cosa che crea ulteriore dolore a queste persone che sentirle trattare così. Tra l'altro, proprio il giorno dopo di questa mia riflessione, su Repubblica c'era una video intervista di una ragazza che diceva: quello di ieri era veramente mio padre, e raccontava appunto la storia di questo papà che lei non ha potuto neanche salutare. Quindi immaginate semplicemente il dolore. Dicevate giustamente della festa del papà, quest'anno è stata una festa del papà stranissima. Io di solito chiamo di corsa, probabilmente lo facciamo tutti, no? Che abbiamo la giornata impegnatissima per fare gli auguri di cortissimo papà, auguri, così liquidando magari in pochi minuti. Ecco, mai come quest'anno ho veramente voglia di abbracciarlo e non potevo farlo. E quindi secondo me dobbiamo trarre insegnamento, magari dopo tutta questa esperienza, dopo tutto questo dolore, potremmo anche ritornare a riscoprirci migliori di quello che pensavamo essere. Gabriele, ma infatti la tua riflessione colpisce molto, perché fa leva su un'emozione che sembriamo quasi aver dimenticato e che in questi giorni per fortuna un po' per volta stiamo riscoprendo, no? L'empatia, cioè il dolore che ci tocca proprio come se fosse il nostro, anche quando non è nostro. Ma allora ti chiedo, cioè, questa retorica ghiacciante del muoiono solo i vecchi, no? Che abbiamo sentito ripetere alla nausea, come se gli anziani non fossero persone, non avessero affetti, non avessero figli, non fossero i nostri padri. Io ho letto in settimana un altro post, ahimè agghiacciante, di una giornalista o presunta tale, che diceva: stiamo bloccando il paese per gli over 70. Cioè, come ci siamo ridotti così? No, ma poi faccio insomma un'altra riflessione. Siamo appunto, come dicevi tu, del paese della retorica. Poi c'è la festa del nonno e siamo tutti lì a celebrare i nonni. Cioè, questo è un paese che strutturalmente chiaramente ha un'età molto avanzata e quindi arriveremo tutti rapidamente ad essere nonni. Ma è un paese che vive e va avanti anche grazie ai nonni. Noi che siamo padri sappiamo benissimo che, se io ho detto che non posso far conto su mia mamma, per dire, o non più su mio papà, perché poverino ha dei problemi fisici. Ma per me è un problema, cioè, se io non fossi a casa costantemente, a parte l'impegno radiofonico che ho, sarei veramente in grande difficoltà per gestire la famiglia. Cioè, siamo un paese pronto a santificare il ruolo dei nonni, a commuoverci per le storie, per carità, meravigliose, di nonno libro, e poi siamo il paese del chi se ne frega, muoiono solo i vecchi. È una cosa veramente agghiacciante. Per fortuna io credo, e probabilmente la condivisione della mia riflessione è una piccola cartina tornasole, che forse il sentimento comune è un altro. Bisogna anche capire poi quanto queste riflessioni che vengono fatte siano dei classici troll, se di gente che vuole parlare, anche di questo potremmo parlare per ore, cioè speculare in questo momento per cercare di far parlare di sé è una cosa che fa veramente accapponare la pelle. Cioè, forse dovremmo essere più equilibrati, cioè o li celebriamo sempre o non li celebriamo mai, quindi non facciamo la festa del nonno se poi, come dire, siamo tra quelli che diciamo muoiono solo i vecchi. Ecco, se tutto questo veramente non ti insegna niente, secondo me ti deve fare veramente un esame di coscienza approfondito. Gabriele, tu insieme anche ai tuoi compagni del Trio Medusa, insomma, siete abituati a essere osservatori anche scanzonati dell'attualità, della realtà, del giorno per giorno, no? Quindi tu hai l'occhio abituato a vederti intorno, a vedere quello che succede. Ti porto questo occhio a casa tua, nei confronti dei tuoi figli adolescenti. Sì. Come li stai vedendo in queste settimane? Stanno cambiando? Sono diversi? Ma devo dire che insomma mi sembra che hanno reagito bene, ma anche parlo questo tipo dei compagni di classe, così stanno reagendo bene. E tra l'altro, appunto, siccome anche questa è un'altra cosa, e noi, no, di mezza età, diciamo così, 40-50 anni, i giovani così sono molto più ligi. Per esempio, secondo me, cioè io vedo in giro gente immotivatamente molto più simile alla mia età che rispetto ai ragazzi, almeno ti parlo di Roma e delle zone che frequento io, che sono appunto per il tragitto casa lavoro e basta. E anche per esempio con la scuola da casa, no? Attraverso le riunioni, diciamo insomma in remoto, sono molto precisi, la prendono come impegno. La differenza è che, diciamo insomma, la femmina comunque, diciamo, si sistema come se dovesse uscire, il maschio ha trovato il suo paradiso, perché ovviamente è diventato da 2 settimane, quindi Infatti basta accendere o spegnere la videocamera, appunto lì c'è la differenza tra il maschio e la femmina. Io ho fatto poco fa una diretta per Rai 1 e sotto avevo la tuta e le ciabatte sono una pezza elegante, perché chiaramente quindi però ecco, devo dire che sono molto attenti. E quello che diceva dall'inizio, fanno molte domande. Mi permetto, il mio consiglio veramente ai docentesimi: parlate molto con i vostri figli, cercate di spiegare anche a parole vostre e senza, come dire, metafore fantasiose. Poi chiaramente, esatto, dipende dall'età, ecco, però se avete dei figli adolescenti, secondo me, che vi fanno domande esplicitamente sulle morti, sul contagio, così cerco di essere contatto, ma molto molto attento, ecco, a raccontargli, a tentare di spiegare che cosa sta accadendo, anche se poi tante volte anche la risposta, diciamo, più sincera è non lo so, perché veramente ci sono delle cose che non possiamo sapere né comprendere. Ringraziamo Gabriele Corsi per essere stato qua con noi oggi ai Padri Eterni. Ciao Gabriele, grazie. Grazie a voi, grazie. Viva i papà e viva i nonni, e viva le nonne e viva le mamme. Evviva. Grazie. Ciao a tutti, Gabriele. Grazie. Ci fermiamo, allora. Ci fermiamo al traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I fatti raccontati in modo semplice ma senza semplificazioni e spiegati in profondità affinché diventino idee da condividere. Effetto Giorno dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14. Naturalmente qui su Radio 24. Padri Eterni. We were sitting at our desks as the bell was about to ring. Waiting for the teacher to tell us the usual thing. We'll have history and math and chapters to the next day. But I couldn't believe what Mrs. Peterson forgot to say. Padri Eterni, eccoci qua. Matteo, insomma, è uscita la notizia che le scuole rimarranno chiuse a tempo indeterminato. C'era già il sentore di questo, già tanti insegnanti avevano iniziato a dirlo ai ragazzi, anche le famiglie già lo stavano capendo. Però sai, cambia qualcosa, no? Prima avevi un limite, avevi una meta, adesso è boh, si va avanti così. E questo probabilmente può creare ancora più ansie nei nostri ragazzi. Come sta andando la quarantena con le tue figlie? Ma insomma, credo un po' come in tutte le famiglie. Ecco, tra l'altro è sempre surreale questa cosa, no? della notizia del proseguimento, insomma, della chiusura delle scuole, perché su noi genitori impatta in una maniera, sui nostri ragazzi impatta in un'altra, perché naturalmente loro in prima istanza, in un primo momento, insomma, sono quasi contenti di questa cosa, ma poi ahimè sulla lunga distanza cominciano anche ad emergere i problemi, perché non poter andare a scuola vuol dire anche non poter vedere i loro amici, vuol dire anche avere minore occasioni di socialità, insomma, tutto questo alla lunga si fa sentire. E cambiano anche gli atteggiamenti, no? Alcune regioni già da diverse settimane che vivono questa situazione, altre un po' meno, però c'è una sorta di curva, no? All'inizio c'è un po' anche di entusiasmo, lei si sta a casa da scuola, poi ci si abitua, poi arriva la noia, arriva anche il doversi riorganizzare i tempi liberati. Credo però che siamo arrivati anche un po' al momento dello sbrocco adesso, nel senso che soprattutto con gli adolescenti, no? Che fanno comunque fatica a starci dentro in casa, in questa situazione, a non avere le loro libertà. E quindi volevamo proprio dare un po' di lezioni anti-sbrocco, anche per noi e soprattutto per noi padri. E abbiamo convocato una espertissima di adolescenti, diamo il benvenuto all'amica Maura Manca, psicologa e psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus. Ciao Maura, buona domenica. Ciao, buona domenica a voi. Ciao Matteo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao Maura. Maura, credo che in questi giorni tu abbia ricevuto molte telefonate di aiuto, più dai ragazzi, più dai genitori, più dai padri, più dalle madri. Chi è che non ci sta più dentro? Io devo dire che non hanno gradito la notizia della proroga, perché se all'inizio c'era una reazione quasi di uniti per la sopravvivenza, ora inizia la fatica vera e le prime difficoltà. Devo dire che i ragazzi stanno iniziando a chiedere aiuto e a farsi sentire. Mentre prima erano i genitori un po' più preoccupati, adesso loro vedono sfumare la fine dell'anno scolastico, c'è chi è preoccupato, chi era innamorato, i fidanzatini, chi non può più fare sport, e li vedo un po' preoccupati. La domanda che mi fanno da due giorni a questa parte costantemente è: quando finirà? È come se ci fosse un bisogno di saperlo, perché alcuni addirittura si stanno sbroccando al contrario, cioè invece di reagire verso fuori stanno reagendo verso dentro. È da due giorni che asciugo le lacrime virtualmente di tantissimi ragazzi e devo dire anche genitori, alcuni papà che non riescono a vedere i figli, un papà ieri mi ha scritto inizia a essere dura, inizia a diventare dura, è difficile proprio non sbroccare, la parola che sta emergendo è proprio questa. Ma perché ci sono magari dei non detti, ci sono delle tensioni che quando hai le vie di fuga, che sono il lavoro per il papà, che sono la scuola e gli amici per il ragazzo, forse ci si scarica anche così. In questo modo invece tutto viene scaricato dentro casa. Hai qualche consiglio da darci? Assolutamente sì, perché adesso i livelli di difficoltà sono sempre maggiori, il problema economico, le paure, l'isolamento, la gestione, quindi dobbiamo stare attenti. Punto primo, a evitare anche gli scontri tra noi adulti, perché anche quello sono una fonte di innesco pazzesca. Cercare di capire che tante volte gli adolescenti che iniziano a essere preoccupati manifestano le proprie ansie e paure con l'aggressività. E quindi molti genitori che mi chiamano e mi dicono adesso io mi sbrocco perché non ce la faccio più, perché non capisce, quindi si aspettano che loro comprendano autonomamente la gravità della situazione. La parola chiave è aspettative. In questo momento non dobbiamo aspettarci dall'altro che comprenda, che capisca, soprattutto col più piccolo. Siamo noi che dobbiamo disinnescare quello che può essere una bomba e cercare di coinvolgerli andandogli incontro, cioè abbassare, diventare più tolleranti gli uni degli altri, perché quando siamo stanchi emotivamente siamo meno tolleranti. Se siamo meno tolleranti rischiamo di discutere e litigare per ogni cosa, perché per i ragazzi le loro esigenze sono impellenti, i loro bisogni è fondamentali perché vivono appunto in funzione delle loro esigenze. Gli adulti dall'altra parte la pensano nello stesso modo, quindi in questo modo si crea l'innesco e si crea lo scontro, per cui il più intelligente, il più maturo, quello che riesce a comprendere meglio questo meccanismo dato dallo stress, perché se no andiamo tutti in burnout, lo deve mettere in atto. Ma tra l'altro, Maura, adesso non si tratta più solo del discorso della privazione della libertà, diciamo così, no? Ora subentra anche un altro genere di paura, no? Perché all'inizio sembrava che i bambini, gli adolescenti fossero immuni da questo virus, ed è vero nella stragrande maggioranza dei casi, però qualche adolescente si è ammalato, sia pur in misura molto più lieve. Tu so che sei da sempre, no, per dire la verità agli adolescenti, quindi per non nascondergli le cose. Anche in questo caso noi padri, il nostro compito di solito è sempre quello di proteggerli, no? Proteggerli significa mentire, di nascondere le cose, o forse dobbiamo anche dire che questa possibilità esiste, essere certamente incoraggianti ma onesti? Assolutamente sì. Loro se ne rendono conto della gravità della situazione, anche quando fanno finta di niente o negano, è una loro difesa, è un loro meccanismo che hanno perché sono spaventati, perché tante volte poi da me, che si riescono a far vedere nella loro intimità, mi stanno chiamando molto preoccupati e mi chiedono la stessa cosa: ma noi possiamo morire? Ma noi ci possiamo ammalare? Perché sono terrorizzati da tutto questo. E io gli dico la verità, gli dico che può capitare, perché non possiamo dirgli che non può capitare, e questo gli deve far stare ancora più attenti, e questo gli deve non creare quella paura che li blocca e gli diventa angoscia, ma quella responsabilità che forse devono ancora imparare e che davanti a una situazione del genere possono iniziare ad imparare attraverso l'aiuto del genitore, che dicendogli la verità non glielo deve dire con un tono di ansia e di angoscia e di preoccupazione eccessiva, ma semplicemente facendogli capire che rispetti le regole, se stai e attento a quello che ti dicono, ce la facciamo e ce la possiamo fare. Maura, ma si può anche codificare però il momento dello sbrocco? Cioè, nel senso, ci può essere uno spazio, un tempo, una modalità per comunque tirar fuori quello che c'è dentro? Lo si può concordare lo sbrocco? Sì, in un certo senso sì, nel senso, perché a volte fa anche bene sbroccare. Questo noi non guardiamo mai il lato positivo anche del tirar fuori. Io per esempio stamattina ho parlato con un ragazzo di 18 anni che era ipercompresso, non riusciva a sbroccare tirando fuori la paura e l'emotività, l'ho punzecchiato intenzionalmente e poi si è fatto un pianto liberatorio e ha tirato fuori tutto quello che aveva di rabbia, di paure. Certe volte ci serve, però non deve essere distruttivo. Cioè dobbiamo capire che a volte l'altro ha bisogno anche di noi che siamo lì come punto fermo, di piangerci addosso, di dirci anche delle cose, di arrabbiarsi, perché questo fa parte anche del volersi bene e dei legami, soprattutto nei momenti di difficoltà, perché siamo tutti estremamente provati da questa situazione e quindi a volte capire quando e come non deve essere una basato, come dicevo prima, sulle aspettative, perché se io mi aspetto che tutti siano responsabili e collaborino, qui diventa uno sbroccare distruttivo e ci facciamo solo del male. Se invece serve per esprimere anche l'emotività e la parte più dura, pesante e negativa che abbiamo, fa bene. Matteo? Quindi Maura, non negare in generale le nostre emozioni, diciamo così, ma cercare di accoglierle, paure comprese, per cercare di trasformarle in sentimenti costruttivi, potremmo dire. Assolutamente sì, cioè siamo noi che in genere diciamo sempre sorridi, non piangere, come se non potessimo essere anche tristi o arrabbiati. Sono tutte emozioni che invece ci fanno parte della nostra vita. Anche la rabbia ha una funzione importantissima, che permette di far arrivare i nostri messaggi più forti all'altro quando l'altro non ci sente e non ci capisce. Soprattutto gli adolescenti a volte urlano proprio per dire esisto, ci sono, riconoscimi, eccomi qua. E allora invece di stare lì sempre a bloccarle, a reprimerle, soprattutto in questo momento, le tiriamo fuori, però poi le usiamo, ne parliamo, cerchiamo di costruire qualcosa su questo e di capire che siamo tutti esseri umani, sia i padri che i figli. Maura, chiudo con due immagini, una è quella di una figlia adolescente di un'amica che l'altro giorno si è messa in camera a fare le candele con la cera, e l'altra immagine è quella di mio figlio che l'altra sera si è fatto 2 ore di cineforum su Instagram, no? È molto presto, credo, per trovare una risposta a questa domanda, ma tutto questo cambierà i nostri ragazzi? Rimarrà qualcosa di questo tempo sospeso, dove comunque ci sono nuove abitudini? C'è anche una nuova cura del tempo, secondo te? Secondo me molti di loro hanno capito che sono fragili e più fragili di quello che possono pensare, e quindi sicuramente questo gli porterà un po' a cambiare. C'è chi più, c'è chi meno. I ragazzi più sensibili sicuramente sono più toccati rispetto agli altri che hanno una corazza un po' più dura, però ho visto in molti di loro delle risorse e tanti genitori, che alcuni mi hanno per vedere anche un lato un po' simpatico. Un papà ieri mi ha mandato una foto del figlio che puliva la stanza e mi ha scritto i miracoli ai tempi del coronavirus, quindi c'è anche un po' l'aspetto che stanno riscoprendo alcuni genitori i figli sotto una chiave diversa, cioè, e allora bisogna un po' sfidarli a volte, incuriosirli e fare anche noi delle cose un po' con i ragazzi, però che riguardano anche un po' il loro mondo. Se noi entriamo nel loro mondo senza invaderlo, ci fanno entrare e vediamo delle risorse enormi. Io vedo ragazzi che mi mandano quadri, che stanno dipingendo, scrivono, compongono canzoni. È quasi emozionante vedere anche tutte le potenzialità e le risorse quando hanno più tempo per dedicarlo a quella che è la loro interiorità. Ringraziamo. Certo, quindi, insomma, sì, mi sembra di poter dire no, quindi cercare in questo tempo tutte le opportunità che paradossalmente può offrire, ecco, mi sembra la conclusione migliore. Sì, assolutamente sì, cioè, lo vediamo come una risorsa, tiriamo fuori tutti noi qualcosa, altrimenti ne rimaniamo solo esclusivamente schiacciati. Ringraziamo Maura Manca, psicologa e psicoterapeuta, adolescenza.it è il suo sito, ma la trovate su tutti i social, anche con belle intense dirette in questo periodo dalla sua cucina, quindi insomma con un sacco di consigli e di dritte per un confronto anche quotidiano. Grazie davvero Maura, ciao e buona domenica. Grazie a voi, grazie. Ciao Maura. Noi ci fermiamo nel momento della pubblicità, il meteo, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni, fino a mezzogiorno insieme per parlare di padri, per parlare ai padri. Radio24.it, come sempre vi ricordo, il nostro sito, da lì potrete poi scaricare il podcast. Padri Eterni at Radio24.it invece, se volete scriverci, se volete contattarci mandandoci idee o suggerimenti. Come già abbiamo detto, è una puntata registrata, siamo in remoto, io a Bologna, il nostro Matteo Bussola a Verona. Sei ancora lì, vero Matteo? Sì, sì, ci sono, ci sono. E adesso ci colleghiamo invece con un amico delle famiglie, un amico dei bambini, un amico delle bambine che insomma ci ha abituato qualche anno fa a fare ad animare i nostri pomeriggi in casa. Lo faceva con Art Attack, poi questa vena creativa le è rimasta in questi ultimi anni anche, insomma, è diventato molto bravo con la scusa dello spiegare le cose ai propri figli, ci spiega l'attualità, ci spiega un sacco di cose. E diamo il benvenuto all'amico Giovanni Mucciaccia. Ciao Giovanni. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao Federico, ciao, ciao Giovanni. Ciao. Così, insomma, l'attacco d'arte quando ti prende, questo ormai è... Sì, sì, sì, dai, ne avevamo parlato anche un po' di tempo fa, diciamo, questa chiave ironica, no, di raccontare quello che avviene, ma lo faccio poi nello stile di Art Attack, insomma, con tanta ironia e cercando un po' a volte anche di far riflettere, insomma, come ho fatto nell'ultimo video, quello sul coronavirus. E infatti, perché con questo video, usando un po' di pupazzetti che hai trovato per casa, hai cercato di spiegare ai più piccoli che cosa sia il coronavirus? È una domanda che davvero i tuoi figli ti hanno fatto? Ma guarda, in realtà questi video io dico che sono rivolti ai bambini, ma è chiaramente un pretesto, no? Cioè sono video che io posto sulla mia pagina Facebook e sono rivolti principalmente a quelli che erano i bambini di una volta, quelli che oggi sono i miei bambini cresciuti, che mi seguono sulla pagina, che sono ragazzi che vanno, diciamo, dai 18 ai 35 anni, quindi insomma io sostanzialmente mi rivolgo a loro. Poi i miei figli mi hanno chiesto cos'è il coronavirus, ma sicuramente non glielo ho spiegato utilizzando Salvini oppure insomma Zingaretti. Esatto, mi sfugge in questo, cioè capito, chiaramente glielo spiego in altro modo, ma insomma non utilizzando i politici. I video che faccio sono un po' un pretesto, no, per raccontare quello che ci circonda, quello che avviene intorno a noi. Il video ovviamente lo potete vedere sulla pagina di Giovanni Mucciaccia, la pagina Facebook, ma vi facciamo ascoltare un breve estratto. Questo coso che nella seconda versione, così dicono, sembrerebbe essere stato progettato in un laboratorio. Attenzione, perché se mi scappa di mano questo affare, qui rischio di provocare una seconda pandemia. Guardate quanto è affascinante, no? Questo è un rompicapo per gli scienziati in questo momento, perché è intelligente, o meglio ha un comportamento intelligente, come se fosse il riflesso di un'intelligenza, cioè lui si insidia nel corpo umano, rimane silente, il corpo va a spasso, infetta altri, cioè ha un comportamento davvero interessante per uno scienziato, è una macchina da guerra, potremmo dire. Io non so dov'è la verità, se nella prima o nella seconda versione, ok? Probabilmente lo scopriremo nel prossimo attacco d'arte, però quello che voglio dirvi è che io sono un ottimista e spero davvero che vada tutto bene. Ciao ragazzi. E questo era Giovanni Mucciaccia, eccolo, con il coronavirus, che tra l'altro era molto bello. Cioè, come lo hai realizzato? Guarda, come dico all'inizio del video, ed è vero, ho terminato la cola vinilica in questo momento, perché in quarantena e adesso Amazon eccetera spediscono, ma con dei tempi lunghissimi non si può uscire, perché non so se sapete questa cosa, immagino di sì, ma diciamo si possono acquistare solo beni di prima necessità. Cioè, se vai in cartoleria, in cartolibreria, e chiedi un quadernone per tuo figlio che fa la quarta elementare, in teoria non potrebbero vendertelo, no? E anche la colla vinilica rientra nella categoria, diciamo, di cose che non puoi acquistare, e Amazon ha dei tempi lunghissimi. Cioè, quindi ho finito la colla vinilica, ho utilizzato i giochi dei miei bambini, e quello è un giochino che è fatto di tutte quelle palline con quei dentini che si appiccicano e formano delle figure, lo stesso con il quale ho realizzato il pipistrello. Insomma, però è affascinante, perché lo ricorda molto il coronavirus, no? Sembra quasi fatta apposta. Infatti, quando l'ho realizzato, dico, cazzi, ma questo è pazzesco, è impressionante, no? Quanto assomiglia appunto a un virus, insomma, qualcosa di infettivo, no? Cioè, perché c'ha tutte queste terminazioni strane. Mi sono divertito, ecco, ho usato i chiodini, ho usato diverse cose che usavamo anche noi da bambini per raccontare questo attacco d'arte, perché appunto, non avendo la colla, non potevo realizzare cose, diciamo, oggetti di altro tipo. Ma Giovanni, guarda, tu dici che i tuoi video non sono rivolti, diciamo così, direttamente ai bambini, ma in realtà è la loro forza, che sono del tutto trasversali, proprio perché gli adulti magari ci possono trovare dentro anche l'attualità politica, e i bambini invece si divertono col lato più favolistico, con la tua maniera che hai di raccontare le cose. Ma la domanda che ti vorrei fare, proprio riferendomi a quello che stavi dicendo, in questo momento specifico, in questa penuria di materie prime, in cui le cartolerie sono chiuse o hanno il divieto di vendere determinati materiali, ci dai qualche consiglio su come avere comunque degli attacchi d'arte in questo periodo di quarantena? Guarda, che possiamo fare, dare? Bisogna veramente riutilizzare tutto quello che ci capita sotto mano, cioè anche provare a sperimentare cose nuove, cioè magari, non so, se ti avanzano dei pastelli a cera, devi utilizzare quelli, se hai dei tempere, puoi provare ad unirle a dei materiali che, come dire, Non ti aspetteresti che puoi utilizzare in quel modo, cioè dei tubi, delle viti, cioè utilizzare tutti questi materiali, dei bulloni, cioè quello che trovi, per farli diventare degli strumenti per dipingere, per realizzare qualcosa. E allora lì scopri che magari una vite può essere utilizzata come se fosse, come dire, una matita, intingendola nella tempera, ci puoi tracciare delle linee, però produce anche un'impronta, e allora magari con la punta realizzi un fiore, e con l'impronta di quella vite, no, che è fatta della parte filettata, magari la usi per decorare. Bisogna inventarsi, cioè è un periodo assurdo questo, mai nella vita avremmo pensato di ritrovarci in queste condizioni. Poi ogni giorno, purtroppo, almeno in questa fase, va sempre peggio, chiudono i negozi, quindi veramente è uno scenario che sentivamo parlare da bambini, no? Mio padre mi raccontava, sembra una cosa da guerra, non si trovano i beni, non dico di prima necessità, però diventa un problema comprare anche un rotolo di nastro di carta. Io proprio oggi pensavo, dico, cazzo, sto finendo il rotolo, cioè che è una roba banalissima, no? Che costa 1,50 euro, è probabile che io un rotolo di nastro di carta lo pagherò, non lo so, 12 euro, 15 euro, perché magari troverò chi me lo spedisce e devo pagare il corriere. È una situazione assurda, veramente destabilizzante, quindi dobbiamo fare con quello che troviamo e provare a inventare. Per esempio, una cosa che consiglio io è di fare, di svolgere un'attività che secondo me in questo momento è anche molto rilassante, che sono gli origami, che sembrano, come dire, banali, sono molto complessi, hanno delle architetture, delle geometrie che sono interessanti. Ma i tuoi figli ti seguono sugli origami? Sì, abbastanza, la piccola no, Edoardo insomma, perché chiaramente sai, devi avere una manualità molto sviluppata per gli origami, devi essere molto preciso, però rimangono affascinati da come con un foglio di carta, no, tu crei queste forme che sono magiche, no? Poi l'origami è giapponese, ma... ha tutta una sua filosofia, è affascinante, ecco, secondo me. Confermo, le mie figlie sono appassionatissime, sono state contagiate dalla mamma, questa loro passione, eppure quando cominci e vedi con quale facilità, quando impari, diciamo così, le piegature base, riesci ad ottenere un risultato, effettivamente è una bella soddisfazione. Giovanni, Giovanni, sì, in questi giorni dove appunto ci viene chiesto di non aprire la porta di casa, tu invece stai aprendo porte segrete. Che cos'è la porta segreta? Ma guarda, la porta segreta è un programma di divulgazione. Io sono molto contento, sono molto fiero di questo programma, perché veramente ci ho impiegato anni, anche di rinunce, insomma, per arrivare ad avere una credibilità, poi, no, per condurre programmi di questo tipo. E, è un programma in cui in ogni puntata io attraverso tre città d'Italia, che però sono unite da un tema comune. Quindi la porta, perché apro delle porte che mi consentono di passare da una città all'altra, ma anche la porta segreta perché è metafora di una porta che si apre e che fa luce su un argomento, su qualcosa, un luogo magari che abbiamo dimenticato, che è sconosciuto, su una storia che non abbiamo mai ascoltato. Ieri, per esempio, la puntata di ieri è una puntata sulla passione, cioè abbiamo raccontato la passione in diverse forme, quindi sono partito dalla passione per la scultura di Michelangelo, alla passione per il restauro di Antonio Porcellino, che invece ha restaurato il museo di Michelangelo, che ci racconta quello che ha scoperto intorno a questa statua, alla passione per la danza, perché ho intervistato la direttrice del Balletto di Roma, quindi come nasce la passione per la danza, la passione per il collezionismo di arte contemporanea, sono andato alla Peggy Guggenheim e ho intervistato la nipote di Peggy Guggenheim, ma anche la passione per un cioccolatino, per la cioccolata, cioè come si progetta un cioccolatino, che emozioni ti deve dare, no? Cioè il fatto che il cioccolatino ha una sua architettura, una sua forma che, come dire, che rompendosi sotto i denti deve darti quelle emozioni che durano pochissimi minuti e che ti portano magari in un luogo magari della tua infanzia, no? Il momento della tua infanzia, oppure improvvisamente ti portano in Sardegna, non lo so, perché senti il mirto, perché senti, no? E quindi mi hanno raccontato la passione, no? Un po' come la nostra, no? Noi che abbiamo la passione, non so, appunto per la scrittura nel caso tuo, per la conduzione, no? La passione è quello che ci porta avanti, no? Fare quello che vogliamo fare, che ci fa appunto aprire porte segrete, ed è un tipico programma proprio da guardare insieme in famiglia, padri e figli insieme, perché, e poi si viaggia, che in questo momento in cui non possiamo farlo, credo che almeno poterlo fare con la mente, con belle immagini e un bel racconto come quello che sa fare Giovanni, sia sicuramente un valore aggiunto. La porta segreta su Rai 2 ogni sabato alle 17:10, se non erro. Sì, esatto, sì, 17:10. E ovviamente su Rai Play, insomma, si possono rivedere tutte le puntate. Certo. Grazie davvero Giovanni, certo. Complimenti come sempre. Grazie ciao a Giovanni, voi ragazzi, grazie. un abbraccio grande. A grazie te, buona mille. Domenica. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Noi ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qui con i Padri Eterni. Padri Eterni. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi parole. Ed è Gino Paoli che ci accompagna ad accogliere il prossimo ospite. Lo abbiamo già conosciuto qui ai Padri Eterni perché è un papà, è un improvvisatore teatrale e ha dato vita a un bellissimo progetto che è quello di Bar Papà, barpapà.it per tutte le informazioni, ma soprattutto questa settimana ha presentato il suo nuovo libro che si intitola Bar Papà 2. Diamile benvenuta Patrizio Cossa. Ciao Patrizio, buona domenica. Ciao, buona domenica a voi, come va? Ciao Patrizio. Siamo qui, insomma, tu sei uscito col libro, hai fatto una presentazione online, insomma ti sei già adeguata a questi tempi dove ovviamente siamo costretti, no, a utilizzare nuove forme di comunicazione, però credo che sia andata comunque bene. Ricordiamo che cos'è Bar Papà. Allora, Bar Papà è una community di papà, blogger, scrittori e non solo, che vuole, diciamo così, raccontare la paternità, questa nuova paternità che sta uscendo adesso, quindi la voglia di far sentire la nostra voce, però senza quel machismo che ci ha un po' vincolato nelle generazioni passate, e rappresentando proprio quello che siamo, cioè siamo semplicemente dei papà che vogliono esserci e che vogliono esserci per i figli, per la famiglia, per tutti quanti. E Bar Papà 2 racconta un po' di storie di questi papà. Sì, perché il primo volume, cioè, quindi Bar Papà 1, raccontava 20 storie di 20 papà, e in questo secondo volume ci sono altrettante storie di altri papà diversi, quindi comunque sono tanti racconti all'interno di questo bar, diciamo ipotetico, in cui io sono il barista e loro vengono, gli avventori vengono e mi raccontano le loro storie. Raccogliete queste storie, no, di questi 20 padri diversi, alcuni anche famosi, diciamo, no, che affrontano ogni giorno la paternità con tutte le sue difficoltà. Tra gli altri ci sono Michele La Ginestra, Stefano Fresi. Ma ti volevo chiedere questo, no? Cioè, fra questi papà con queste storie tutte diverse, tutti differenti, ciascuno con le proprie specificità e la propria vita, ci sono degli elementi, come dire, che li accomunano, un identico sguardo sulla vita, delle cose che pur nelle loro diversità li tengono insieme? Guarda, sì, assolutamente, c'è una cosa molto bella che alla fine delle interviste chiedo sempre: se avessi qui di fronte a te i tuoi figli 18 anni, che cosa vorresti dire loro, che consiglio vorresti dare loro? Alla risposta a questa domanda c'è sempre una pausa molto lunga e un sorriso che si sente proprio sia al telefono che dal vivo, perché c'è questa emozione che traspare, cioè il concetto proprio di sentirli crescere, vederli crescere e crescere insieme ai figli, ed è una cosa che accomuna tutti, non c'è scampo, non se ne esce. Patrizia, ma quando è che una storia di papà ti piace? Quando è che ti lascia qualcosa e dici sì, questa storia va raccontata? Quando in realtà c'è una si percepisce che nel racconto c'è veramente la voglia di stare con i figli. Ho sentito veramente tantissime storie, per selezionarne 20 nel primo e 20 nel secondo comunque ho fatto fatica, perché erano tutte molto belle, però ce n'erano alcune che si raccontavano la paternità ma si sentiva un po' distaccata, ancora bloccata sotto alcuni aspetti, e soprattutto che non si lasciavano andare, mentre invece altri mi hanno proprio raccontato, mi hanno aperto il cuore, mi hanno raccontato veramente la loro storia pur senza non conoscerci, però accomunati dal fatto di essere papà, e quindi dal, come dire, ok, la sappiamo tutte e due, partiamo da un terreno comune, e quindi da lì in poi è stata una cosa veramente molto bella e molto emozionante sentire questi racconti. Patrizio, la domanda delle 100 pistole, questi padri che riescono a sfuggire a questo stereotipo che tu dicevi, no? Questi padri che riescono a ripudiare il machismo tout court e i ruoli istituzionalmente intesi, ti sembrano padri più felici? Sì, guarda, adesso non ho paura di essere smentito, ma sì, decisamente sì, perché creano felicità. Cioè creano felicità nei figli e che quindi di rimando diventano più felici loro, ed è una cosa bellissima, perché noi avremo veramente la prossima generazione, i prossimi 20 anni vedremo i risultati di quello che stiamo facendo adesso, però sicuramente già ora abbiamo conquistato una piccolissima cosa che è una nostra felicità fatta di piccoli momenti, fatta di piccole cose. Bar Papà 2, altre storie maschie sempre corrette al latte di Patrizio Cossa, Ultra Edizioni, barpapà.it è il sito per tutte le informazioni, oppure nella pagina Facebook. E Patrizio, un'ultima domanda prima di salutarti: tu ufficialmente sei un improvvisatore teatrale, e sì. ti aiuta questo nell'essere padre? In cosa? tantissimo, soprattutto in questo momento ringrazio di aver preso questa strada, perché praticamente sto dando fondo a tutti gli esercizi che conosco di improvvisazione per intrattenere mia figlia, perché siamo in casa e quindi stiamo facendo di tutto. E la cosa meravigliosa è che un bambino di 5 anni fa delle cose a livello di giochi, di improvvisazione, che un adulto, io ci metto 6 mesi per insegnare un adulto, mentre lei ci mette un minuto. E quindi è bellissimo poterci giocare insieme. Fantastico. Grazie davvero Patrizio, ciao e buona domenica. Grazie mille a voi, buona domenica. Ciao Patrizio. Prima di salutarci, lo avevamo promesso a inizio puntata, adesso è il momento dei consigli di bussola, insomma tante dritte sul cosa fare a casa, però settimana scorsa ci hai stupito con le 5 ricette, Matteo invece in questa puntata cosa hai preparato per noi? Guarda Fede, per questa puntata ho preparato 5 cose insolite da fare con i figli in questi giorni a casa, premetto tutte testate dal sottoscritto. Bello, ci piace. Allora, la prima è fare le videochiamate ai nonni con WhatsApp, per esempio, organizzando dei piccoli spettacoli per loro, suonando il pianoforte per chi ha figli che sono capaci di farlo, facendo piccoli spettacoli di marionette, perché alla fine i nostri genitori anziani sono fra quelli, no, che più risentono della solitudine e del fatto di non poter vedere più spesso i propri nipotini. Poi la seconda, che è meravigliosa, fare fotobombing, anzi videobombing, nei video dei figli. Spuntare da dietro mentre stanno videochiamandosi con le amici o le amiche, insomma fare le facce buffe. Ecco, l'importante è non esagerare e non fare come il sottoscritto, che ha spalancato in mutande la porta della camera della figlia maggiore mentre lei era in videoconferenza con tutta la classe e gli insegnanti, certo, per fare lezione. Ma l'importante, ecco, è anche non avere figli adolescenti quando si fanno queste robe, perché poi la vendetta può essere tremenda. Sì? La terza è, guarda Fede, questo è il periodo delle semine. Perciò tutti i padri che hanno un piccolo giardino, ma anche solamente un balcone, un vaso, ecco, piantare qualcosa, bello, qualunque cosa, un ortaggio, un fiore, qualcosa che valga anche come metafora o obiettivo, no? Quando questo pomodoro sarà maturo, quando questo narciso sarà fiorito, magari saremo usciti da questa situazione o magari sarà in via di risoluzione. La quarta è scambiarsi le competenze. Quindi per esempio utilizzare i figli per farsi insegnare, per esempio, come si fanno i video su TikTok, che pare una sciocchezza ma in realtà richiede una grande capacità di sintesi, e noi in cambio potremmo per esempio mostrar loro come fare cose che richiedono maggiore attenzione e concentrazione. Adesso non ti dico tenere un diario di questi giorni, che magari è una cosa un po' troppo complicata, che richiede un'abitudine specifica, ma per esempio scriversi una lettera per quando questo tempo sarà finito, scrivere come ci sentiamo, no? Far scrivere loro come si sentono, per poi scoprire quando tutto questo sarà passato quanto sono stati coraggiosi o come si sono sentiti. Ed infine la cosa più insolita, difficile e direi anche avventurosa di tutte, e questa è davvero solo per padri, proprio perché siamo in un periodo in cui tutte le attività sono chiuse, barbieri e parrucchieri compresi, ecco, fatevi tagliare i capelli dai vostri figli e scoprirete il vero significato della parola asimmetria. L'hai provato questo? Sì, eh? Purtroppo sì, per fortuna che facciamo le cose adesso in streaming. Accidente, vogliamo assolutamente la foto. Grazie davvero a Matteo Bussola per le sue dritte, per i suoi suggerimenti, e questo grazie va anche a tutta la squadra di Radio 24 che anche oggi ha permesso di essere in onda con i Padri Eterni. Un grazie per il supporto agli amici di Radio Immaginaria, il grazie più grande ovviamente va a voi per essere stati come sempre in nostra compagnia. L'appuntamento con i Padri Eterni a domenica prossima alle 11, radio24.it, il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast. Ciao Matteo. Ciao Fede. A domenica.